Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria che si chiamano ancora una volta vicenda Goldman Sachs, quindi l'inchiesta della Consob americana contro la grande banca d'affari americana, accusa per frode, ma soprattutto il fatto che da varie indiscrezioni di stampa sembrerebbe che anche la Consob inglese, la Financial Service Authority, l'FCA, ha dato via libera a indagare su Goldman Sachs, e questo crea dei problemi anche sul fronte britannico. La conferma, dopo le varie indiscrezioni, è arrivata poi a metà mattinata. Questo è il fronte, diciamo, banche d'affari, banche che, secondo l'accusa su Goldman Sachs soprattutto, creavano prodotti legati ai mutui ad alto rischio per venderli alla clientela, e nello stesso tempo andavano a scommettere col braccio sinistro che il mercato immobiliare sarebbe crollato, e quindi scommettevano al ribasso sui prodotti che invece col braccio destro avevano venduto. L'altra grande notizia di oggi, come già viene anticipato i nostri GR, riguarda invece il gruppo Fiat, perché il piano industriale, quello molto atteso, verrà presentato domani. Il mercato scommette, adesso vi do il valore del titolo, già si capisce da solo: Fiat guadagna quasi il 9% in borsa, è arrivata a guadagnare oltre il 10%, siamo all'8,86% di rialzo, a 10,38 euro, molto forte anche Xor, più 6,90%, Xor è la società di riferimento quanto a controllo del gruppo Fiat, a 13,90 euro, Parmalat poi bene, ma non c'entra nulla con la vicenda, più 4,20, bene anche la Pop Milano, più 4% come Pirelli, il 3,5% lo guadagna Saipem, il 3,3% UbiBank, il 3% Steam Microelectronics e anche Tenaris, il 2,80 Buzzi Unicem, il 2,60 Azimut, il 2,30 Fondiaria Sai e Impregilo, il 2,20 Prismian, il 2% Unicredit, ma anche il Banco Popolare. E torniamo su Fiat invece, ne parleremo in apertura. Domani tutte le attese, si diceva, sono per l'annuncio del cosiddetto spin-off, cioè da una parte il gruppo Fiat Auto, dall'altra parte il resto del gruppo. Non è arrivata però nessuna conferma oggi, con l'annuncio appunto che Luca Cordero di Montezemolo lascerà la carica di presidente della Fiat. Ci si attendeva anche una conferma sull'ipotesi domani. Probabilmente domani il piano che Marchionne presenterà è definito molto ambizioso. Montezemolo lascia la presidenza, ricopriva la carica dal 2004. Al vertice della casa automobilistica va John Elkann, che guiderà anche la comandita della famiglia Agnelli. Montezemolo resterà comunque nel consiglio di amministrazione Fiat e manterrà la carica di numero uno della Ferrari, oltre alle altre cariche che ha, il fondo Charme, Poltrona Frau, e soprattutto la sfida dei treni del consorzio Alta Velocità con i treni francesi della Stom. Molti dicono che questo sia stato il motivo principale per l'abbandono, inteso come carica, non certo inteso come gruppo, di Montezemolo. E di questo parleremo in apertura, anche perché nel frattempo sono circolate varie voci sugli esuberi possibili di Fiat, e comunque anche sull'attesa per il piano di domani. Altri temi di oggi: la borsa va bene, non solo per Fiat, nel senso che sono positive tutte le borse europee, l'1,4 lo guadagna Parigi, l'1,6 Francoforte, l'1% Londra, lo 0,20 lo guadagna l'America, quindi meglio oggi le borse europee di quelle americane. Dicevo, non solo per Fiat, anche perché vanno bene i gruppi bancari, di Unicredit abbiamo già detto, più 2,2%, bene anche comunque Eni, più 1,7 come Ansaldo STS e Italcementi, Autogrill più 1,6 come Luxottica e Atlantia, e Snam Rete Gas, l'1,5 lo guadagnano CIR, Bulgari e Mediaset, l'1,3 il rialzo di Geox e anche di Campari, Telecom più 1% come Mediobanca ed Enel. Chi perde? Beh, praticamente nessuno, solo A2A cede un marginale 0,1%, i migliori e i peggiori. Le Fiat sulle privilegio guadagnano il 13%, sulle risparmio non convertibili il 10,6% e poi sulle ordinarie, come ricordavamo, l'8,8%. Va detto che nonostante non sia arrivata nessuna conferma del piano di spin-off, di divisione in due del gruppo Fiat, la borsa ha continuato a scommettere, perché insomma il motivo per cui il titolo cresce è sostanzialmente l'ipotesi del scorporo, diciamo, in due parti del gruppo Fiat. Tra chi più perde citiamo Saras, meno 3,92%, Green Vision, meno 3%, Crespi, meno 2,80%, Sopof, meno 2,70%, Sole 24 Ore, meno 2,70%, Poligrafici, meno 2,70%, anch'essa. Ultima cifra per i vostri sms, 349-238-6666. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, le altre notizie, fermo restando che la giornata oggi è tutta concentrata su questi due avvenimenti, uno molto internazionale, di finanza internazionale, appunto le inchieste su Goldman Sachs, l'altro di casa nostra, cioè Fiat, il petrolio ha aperto in rialzo, 82,3 dollari. Restiamo in tema di Goldman Sachs, perché nel giorno in cui si è scoperto che si apre anche un fronte di inchiesta britannico, intanto la banca ha diffuso gli utili sui primi tre mesi. Insomma, ricordate, Goldman Sachs tornò in utile già nel terzo trimestre del 2009, quindi la crisi è finita molto molto rapidamente per la banca d'affari americana, e nei primi tre mesi del 2010 ha quasi raddoppiato il suo utile, portandolo solo per i primi tre mesi a 3 miliardi e 500 milioni di dollari come appunto utili e guadagni del gruppo, e ha proposto tramite il consiglio di amministrazione un dividendo di 35 centesimi per azione relativo al solo primo trimestre. La banca ha anche respinto le accuse, ha detto: noi collaboriamo sia con la SEC americana che con l'FCA britannico, comunque le accuse sono completamente infondate. Ma non la pensa così il cancelliere dello scacchiere britannico, ossia il ministro dell'economia britannico Alistair Darling, che ha detto: le accuse rivolte a Goldman Sachs dalla SEC americana e dalla FCA inglese hanno aperto un'indagine sulle vendite di titoli garantiti da mutui ad alto rischio, e queste accuse sono molto gravi e hanno ramificazioni enormi. Poi ne parleremo, ma insomma anche Bill Clinton ha chiesto scusa per gli errori commessi. Molte delle leggi che hanno permesso poi crearsi di questi strumenti fuori ogni controllo, di cui probabilmente le stesse banche non avevano capito l'impatto completamente, sono state approvate durante l'amministrazione Clinton. Insomma, Clinton ha detto: io ho sbagliato ad ascoltare i consigli dei miei segretari del tesoro del tempo, quindi ministro dell'economia del tempo, Robert Rubin e Larry Summers. Entrambi mi avevano detto che questi strumenti finanziari complessissimi, quelli che vanno a impacchettare il rischio, lo distribuiscono e poi si scommette sull'assicurazione che questo rischio e questo debito possa non essere ripagato, e si va a speculare su come si muove questa assicurazione. Insomma, un universo finanziario difficilmente poi gestibile, e una matassa difficilmente in qualche modo scioglibile, ha detto Bill Clinton. Sia Robert Rubin che Larry Summers mi hanno sempre detto che questi erano strumenti così complessi, gli strumenti derivati, che tanto non andavano regolamentati, perché sarebbero stati utilizzati da pochissimi soggetti. Eppure avevano torto, io ho sbagliato a dargli retta, proprio sul ragionamento che, essendo strumenti così sofisticati e costosi, vi avrebbero fatto ricorso un piccolo numero di investitori. Ecco perché non si fece nessuna legge di protezione verso questi strumenti. In realtà poi abbiamo scoperto che moltissime banche li usavano, europee ed americane, e che l'effetto moltiplicatore era talmente devastante da aver causato la peggiore crisi finanziaria ed economica degli ultimi 50 anni. Non si accendono, soprattutto non calano, diciamo, i timori sulla Grecia. Anche oggi il premio che deve pagare lo Stato greco per trovare dei sottoscrittori delle sue obbligazioni è schizzato a un nuovo massimo rispetto a quanto deve pagare lo Stato tedesco, che è il riferimento in Europa. L'obbligazione greca infatti rende il 4,70% di differenza rispetto a quanto non renda la medesima obbligazione tedesca, il Bund tedesco. Standard & Poor's, l'agenzia di rating, una delle tre agenzie di rating, boccia i dati sulla crescita italiana e soprattutto sull'occupazione. Dice sostanzialmente l'Italia è bloccata in una modalità di bassa crescita e i consumi sono deboli, gli investimenti anemici. E tra l'altro con una bassa competitività dell'export, secondo Standard & Poor's l'Italia quest'anno non andrà oltre lo 0,5% di crescita economica, che è un dato nettamente più basso rispetto all'1% stimato dal governo e anche lo 0,8% stimato da Confindustria e Fondo Monetario Internazionale. Insomma, lo stesso Standard & Poor's prevedevano 0,7%, 0,5% sarebbe veramente, veramente pochino, anche perché poi non ci vuole un genio per capire che con uno 0,5 anno di crescita per recuperare i 5 punti che hai perso l'anno scorso ci metteresti 10 anni, un po' di più anche. E poi la stoccata sui dati della disoccupazione italiana da parte dell'agenzia di rating dice: attenzione, se si considera anche la cassa integrazione, voi avete una disoccupazione al 10%, non all'8,5% come quello ufficiale, che è comunque sotto la media europea. Nell'area euro al 10%, andreste esattamente al 10% come il resto dell'area euro, e lì c'è probabilmente anche una disputa su come considerare la cassa integrazione, se diciamo disoccupazione come fa l'agenzia di rating Standard & Poor's, oppure se invece come fa l'Istat non viene calcolato come disoccupazione, perché comunque percepisce 70, 50, 60% dello stipendio chi è in cassa integrazione. Vero è che se poi non viene prorogata dopo 12 mesi finisce. Vabbè, chiudiamo con due notizie che riguardano la nostra industria. Le esportazioni a marzo fuori dall'Europa bene per l'Italia, più 12,5% complessivamente, quelle fuori dai paesi europei, complessivamente rispetto a febbraio c'è un più 2,3%. Le importazioni però sono aumentate molto di più, del 25%, quindi quasi il doppio di quanto non sia stato l'aumento delle nostre esportazioni, quindi il saldo commerciale è negativo di 1,2 miliardi, mentre era positivo un anno fa, pur essendo molto negative le nostre esportazioni, ma erano ancora più negative le importazioni, quindi il saldo era positivo, è un paradosso. Ma insomma, a marzo del 2009 era positivo di 165 milioni di euro. Dove stiamo esportando di più? Russia bene, più 4,7% rispetto all'anno prima. L'America, quasi il 9% di aumento nelle esportazioni rispetto all'anno prima. Giappone soffre, meno 3%. La Cina, un vero e proprio boom, più 14,5% del nostro export. L'India, più 26%. I paesi del produttore di petrolio dell'OPEC, meno 2%. E attenzione, lo diciamo spesso anche agli imprenditori, qui il mondo sta cambiando, i dati lo dicono molto chiaramente, quella ripresa che si vede è tutta asiatica o di Cindia, Cina e India e un po' anche d'America. Il fatturato, dell'ultima notizia che ho nelle notizie in breve, il fatturato dell'industria italiana ha registrato a febbraio un aumento del 4,2% rispetto a un anno prima, però un calo del 2% rispetto a febbraio. Gli ordinativi, anch'essi stesso andamento, un più 5% se si guarda al febbraio del 2009, ma un meno 0,6% se si guarda al gennaio, al mese di gennaio. E infine il contratto del settore dell'edilizia, c'è un accordo unitario, quindi CGIL, CISL e UIL con l'ANCE, che è l'associazione dei costruttori italiani. Il contratto avrà una durata triennale per la parte normativa ed economica, interessa 1.200.000 lavoratori dell'edilizia e circa 300.000 imprese. Sarà un aumento retributivo pari a 118 euro al terzo livello, spalmati con 40 euro dal 1 aprile, poi 40 euro dal 1 gennaio 2011 e 40 euro dal 1 gennaio 2012. Questa era l'ultima notizia delle nostre notizie in breve. Partiamo col primo tema, la Fiat, domani l'attesa conferenza stampa, ma già oggi a sorpresa una conferenza stampa che ha riguardato formalmente solo, diciamo, i nuovi vertici del gruppo, del Lingotto. 349-238-6666 per i vostri sms. Eh sì, cambiano i vertici della Fiat dopo sei anni praticamente, dal 2004 Montezemolo era presidente, fu chiamato dalla famiglia Agnelli, devo dire nel momento più difficile per la Fiat, quando poi fu il prestito ponte delle banche, 3 miliardi e passa di euro, e l'arrivo poi di Marchionne, che cambiò, svoltò l'andamento del gruppo, lascia oggi Luca, annuncia oggi di lasciare Luca Codoro di Montezemolo. La mia decisione di lasciare la presidenza della Fiat. Vi spiego subito le motivazioni. C'è un piano importante, quinquennale, con numeri, date e obiettivi precisi. È un piano che conosco e approvo totalmente. Di fronte a questo piano, che apre una pagina nuova nella storia della Fiat, che apre 5 anni di attività, io ho ritenuto, in funzione di questo piano, che il mio ruolo, quello di traghettatore, per cui le condizioni, che il mio ruolo fosse arrivato a conclusione come presidente. Così appunto l'annuncio di Luca Codoro di Montezemolo. Siamo in collegamento con Andrea Malan, che ha seguito la conferenza stampa da Torino. Andrea, inviato del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. E siamo in grado anche di farvi sentire la dichiarazione di John Elkann, che appunto prende il posto di Montezemolo alla presidenza del gruppo Fiat. Domani è una giornata importante per la Fiat e per me. Sono molto orgoglioso, sono felice di questo e riconoscente alle tante persone che in questi anni mi hanno aiutato, mi hanno sostenuto. E anche molto grato alla mia famiglia per la sua fiducia. Sicuramente oggi penso a mio nonno e quanto mi avrebbe fatto piacere che ci fosse anche lui qui con noi. E quindi un riferimento anche al nonno Giovanni Agnelli. Allora, Andrea Malan, a sorpresa questo annuncio, motivato ufficialmente da che cosa? Da altri impegni? Montezemolo resterà presidente della Ferrari, manterrà altre cariche in altri gruppi che ha. C'è chi ha detto, mi sembra che sia uscito anche qualche immagine, beh, insomma, c'è anche l'impegno sul consorzio per l'alta velocità, che appunto verrà lanciato e dovrà far concorrenza alla FS sulle tratte più profittevoli dove c'è appunto l'alta velocità. Sì, diciamo che la voce principale che era circolata nei mesi scorsi era che Montezemolo avesse intenzione di scendere in politica. A una domanda precisa oggi ha risposto di no e ha ribadito appunto che intende concentrarsi sulla Ferrari e sugli altri impegni imprenditoriali. Diciamo che per quanto riguarda la politica sicuramente è un no. Per questo momento chiunque voglia entrare in politica sicuramente non lo annuncia fino al momento stesso in cui lo ha deciso. Diciamo che sicuramente in questo momento non è la ragione che ha scatenato, diciamo, come ragione immediata la sua decisione. Non ci sarà un passaggio immediato dalla presidenza della Fiat alla politica. Ci sono state anche delle riflessioni e delle voci su quali possano essere stati le motivazioni per quanto riguarda i rapporti interni. Sappiamo che si è parlato a lungo di tensioni tra Montezemolo e Sergio Marchionne, di una convivenza non proprio pacifica. Anche qui oggi i due naturalmente hanno fatto professione di assoluta stima reciproca, che di fatto probabilmente c'è. È anche vero che la crescita progressiva di John Elkann come rappresentante della famiglia ha sicuramente nei fatti rubato un pochettino di spazio a Montezemolo. Ricordiamo che John Elkann è a questo punto e sarà con la prossima nomina a presidente della comandita di famiglia da Giovanni Agnelli, sarà presidente di tutte e tre le società del gruppo, le società principali del gruppo, una cosa che ha in comune con suo nonno Giovanni Agnelli, ma in realtà all'epoca ricordiamo che oltre a stavolta il ruolo che adesso è svolto da Exor era svolto in parallelo da IFI e IFIL, e allora se l'avvocato era presidente di IFI, il fratello Umberto era presidente di IFIL. Quindi diciamo che John in questo momento cumula tutte le cariche all'interno della famiglia ha assunto un ruolo sempre crescente. È quello che ha detto oggi lo stesso Montezemolo quando ha detto che appunto non c'è più bisogno di un traghettatore. Allora, quando io sono arrivato 6 anni fa, non c'era nessuno nella famiglia in grado di prendere questo posto. John aveva 29 anni, era ancora immaturo, adesso ne ha 35 e intende probabilmente svolgere il ruolo che compete al sì. leader di un gruppo di azionisti che è molto composito, ma di cui lui con una quota circa del 30% all'interno della comunità di famiglia è sicuramente quello che una volta si sarebbe detto l'azionista di riferimento. Sì. Allora, su Montezemolo vedo alcune domande al 349-238-6666. È veramente un anno esatto, cioè Montezemolo arrivò alla Fiat come presidente nel maggio del 2004, quindi ci siamo come date, resterà presidente della Ferrari, di cui è presidente dal 1991, ha tra le varie cariche appunto quella sul consorzio Nuovo Trasporto Viaggiatori, NTV, che dovrebbe essere la prima azienda privata in Europa per il trasporto passeggeri su treni ad alta velocità, resta consigliere di amministrazione della Stampa di Torino, del gruppo francese Pinot Printemps Redoute, di Tod's, del gruppo Rizzoli, Corriere della Sera Quotidiani, e poi altre cariche, ha fondato Charm, fondo finanziario imprenditoriale sull'arredamento, fa investimenti sull'arredamento e design di lusso, dove appunto dentro ci sono i marchi Poltrona Frau, Cassina, Cappellini e Tonet. Domanda che è poi la domanda che tutti si fanno. Questa, diciamo, è la decisione di Montezemolo, che tra l'altro vedo un'agenzia, è adesso stato ricevuto, anzi no, l'agenzia di adesso, ma è stato ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, immagino, per anticipargli la decisione. Ma c'è la possibilità che domani o nei prossimi giorni arrivi un'ulteriore sorpresa? Voglio dire, resterà veramente secondo te presidente John Elkann, oppure si andrà verso, come molti hanno scritto e ipotizzato, una doppia presidenza, cioè la Fiat Auto a Marchionne e il resto del gruppo Fiat John Elkann? Dunque, il discorso dello scorporo è quello che oggi, come sappiamo, ha infiammato... Muove la borsa, certo. Esatto, la borsa, il titolo è salito credo fino al 10% per l'effetto, diciamo, delle attese. Su questo la borsa sappiamo che da mesi o forse da anni crede e spera in questa operazione che, secondo gli analisti, secondo le banche, libererebbe valore e permetterebbe quindi agli azionisti di guadagnarci. La risposta è: alcuni si aspettavano un annuncio già oggi, che non c'è stato. Marchionne lo ha smentito seccamente e ha detto, come ha detto più volte nei prossimi mesi, ne parliamo domani. Qualcosa sicuramente domani verrà detto. Ora, noi sappiamo che nei mesi scorsi la Consob ha in qualche occasione sollecitato la Fiat a fare dei comunicati di precisazione su queste voci di scorporo, quindi domani credo che difficilmente possiamo attenderci una comunicazione precisa con date, modalità, eccetera. È più probabile che venga indicato un sentiero al termine del quale si arriverà a un'operazione di questo tipo. Non dimentichiamo che la situazione di Fiat Auto, la situazione del gruppo è enormemente migliorata da sei anni a questa parte, e anche la situazione di Fiat Auto, ma Fiat Auto da sola ancora oggi difficilmente potrebbe affrontare da solo al mercato. Sappiamo che la scommessa in corso è quella di Chrysler. Domani ci aspettiamo soprattutto dei numeri su quante saranno le sinergie e come si svilupperà Fiat insieme a Chrysler nei prossimi 5 anni. Quando Chrysler avrà a sua volta portato a termine il suo piano di rilancio, e se Marchionne riuscirà effettivamente a rilanciarla e, come ha promesso, a portarla da 1,3 milioni a 2,8 milioni di auto prodotte con 3 miliardi di utili nel 2014, l'ipotesi di un gruppo solo Fiat Chrysler in borsa sarà molto più concreta. Quindi diciamo che non è detto che domani arrivino comunque appunto notizie più precise, certo, su cose soprattutto in tempi brevissimi, tanto più che ricordiamo ancora una cosa: il mercato dell'auto quest'anno andrà molto male, non sì. sarebbe molto consigliabile portare una Fiat Auto sul mercato da sola con delle vendite in Europa in calo del 10-15%. Sì, io dico, ricordo a chi scrive che Fiat Chrysler è già il sesto gruppo automobilistico al mondo, perché vende circa 4 milioni e mezzo di vetture. Vorrei invece venire un altro aspetto che sottolineano i nostri ascoltatori, fermo restando che domani avremo maggiori dettagli anche su, come tu ricordavi, sulla mappa di questa spin-off che tutti, perlomeno la borsa, danno per scontato. Il titolo appena chiuso: più 8,86% Fiat, più 6,80% Exor. L'aspetto occupazionale, perché te lo chiedo? Perché vedo delle dichiarazioni del ministro Scajola che sostanzialmente dicono: vabbè, il piano di Fiat sarà coraggioso, aumenterà la produzione di auto in Italia, si passeranno 900.000 auto prodotte, la nuova Panda Pomigliano, ha parlato da Hannover oggi Scajola, che ha anche detto il governo sosterrà il piano industriale e ha anche detto saprà assicurare la centralità dell'Italia. Però sono circolate voci di insomma un piano anche pesante sul fronte delle riduzioni degli occupati. Beh, sicuramente c'è una vertenza già aperta sullo stabilimento di Termini, quella ormai che vuole chiudere entro la fine dell'anno prossimo. Poi, quello che abbiamo detto prima sul mercato, il calo in Europa, significa che quest'anno la Fiat potrebbe, se le cose vanno male, perdere 200.000 auto in Europa, il che significa più o meno la produzione di uno stabilimento. Sì. Sono circolate nei mesi scorsi voci di possibili ulteriori provvedimenti a Mirafiori o anche in altri stabilimenti, un po' di prepensionamenti a Pomigliano, eccetera. È probabile che Marchionne domani darà qualche informazione in più su questi temi e si era detto anche nei mesi scorsi che non c'era una perfetta coincidenza di vedute proprio su questo tema tra Marchionne e Montezemolo. Marchionne è il manager nato in America, cresciuto in Canada, quindi in America, con una mentalità quindi da manager americano, molto più diretto e molto più drastico anche nei rapporti a volte con i sindacati, con un Montezemolo invece più diplomatico, più attento a cercare di seguire certe compatibilità sociali più tipiche del clima europeo. Vedremo domani se effettivamente verrà annunciato qualcosa di significativo da questo punto di vista, oppure se, come possibile, annunci in tal senso arriveranno magari un po' più avanti nel corso dell'annata, quando sarà chiaro l'andamento del mercato europeo. Ricordiamo che fino al mese scorso le consegne di automobili sono continuate a salire perché gli incentivi alla rottamazione hanno funzionato fino a fine marzo. Per cui vedremo se vi saranno altre novità, noi ci curiamo di no, oltre a Termini Imerese, e anche lì seguiremo la vicenda, aspettiamo ancora di conoscere, c'è già una lista di soggetti interessati, tra cui Simone Cimino, che già più di una volta è stato nostro ospite, vedremo se poi con che tempi si stringerà. Io, Andrea Mananti, darei appuntamento chiaramente a domani, perché domani avremo poi il piano industriale di Fiat. Grazie all'inviato del Sole 24 Ore Torino, Andrea Malan. Grazie, arrivederci. Non ho dato il titolo Banca Intesa, avete come sempre probabilmente ragione. Allora, Intesa chiuso in rialzo dell'1,4%. Comunque tutti i titoli, al di là a questo punto di Fiat Exor, perché ne abbiamo parlato in apertura, ripeto, più 8,86% Fiat a 10,38€, più 6,85% Exor a 13,90€, miglior titolo in assoluto oggi. Fiat sulle privilegio più 13,3% e anche Fiat sulle risparmio non convertibile più 10,20%. Al di là di Fiat, tutto il resto della borsa dopo le informazioni meteo. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa parte di Focus Economia, in cui andiamo a commentare la chiusura di borsa, al di là di Fiat, di cui abbiamo appena parlato, e poi anche ci occupiamo di materie prime, soprattutto di tutto ciò che non è tutto ciò che riguarda il mondo dei metalli non ferrosi, di nuove tensioni sui prezzi. È un po' di settimane che stiamo seguendo questo argomento. Come conseguenza, vuol dire, quando riparte il petrolio, ripartono in generale anche le materie prime, come conseguenza di una crescita economica che in Asia, abbiamo visto i dati di oggi anche sul nostro export fuori dall'Europa, in Asia è una certezza, cioè l'Asia intesa come India, Cina e poi il sud-est asiatico, oltre che Brasile, che con l'Asia non c'entra niente, ma insomma sono i paesi che stanno trainando la ripresa economica, e anche l'America inizia a metterci qualcosa. Comunque la borsa... Devo dire che, come ricordavo in apertura, non c'è un effetto Fiat sull'indice fortissimo, o meglio, c'è, ma tutte le borse europee sono positive. Parigi più 1,4%, Francoforte più 1,6%, Londra più 1%, Milano guadagna l'1,90%. Questa differenza è facilmente spiegabile con l'effetto Fiat, più 8,80 Fiat, più 6,85 Xor. L'America oggi invece è più al palo, più 0,16%. Non ci sono state ripercussioni invece sul settore bancario in Europa dopo la notizia che anche la Consob britannica, dopo quella americana, cioè l'autorità di vigilanza e controllo sui mercati, l'FCA ha deciso di aprire un'inchiesta proprio nei confronti di Goldman Sachs per capire come si è mossa la banca e per capire se le accuse americane possono essere mosse anche dall'autorità britannica. Molto bene Pirelli, al di là appunto di Fiat Exor, più 4% come la Popolare di Milano, più 4 Parmalat, più 3,90 Saipem, più 3,6 Ubibanca, più 3,5 Stima Electronics, più 3,2 Tenaris, più 3 Buzzi Unicem, più 2,90%. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, Pirelli. Beh, Pirelli ha sfruttato un'ottima giornata dell'auto, tu ricordavi il caso di Fiat, ma tutto il settore auto si è mosso in maniera molto brillante, complici anche le indicazioni arrivate da Daimler che ha alzato gli obiettivi per i risultati industriali del 2010, in particolare per quanto riguarda l'utile operativo, portandolo a 3 miliardi, quindi tutto il settore auto molto, molto effervescente. Pirelli però sta sfruttando anche l'attesa solo per l'assemblea di domani, dove forse l'amministratore delegato e il presidente Marco Tronchetti Provera darà nuove indicazioni su quello che tutti attendono, cioè lo scorporo dell'attività immobiliare. Ieri ha già detto durante l'assemblea di Pirelli Real Estate è un'operazione necessaria che darà valore agli azionisti. Il mercato ci ha creduto, ma oggi sicuramente effetto traino dell'auto ha pesato su questo più 4% di Pirelli. E domani rischia di essere un po' potrebbe essere la giornata degli scorpori, perché se venisse confermato lo scorporo Fiat, non tanto non arriverà in maniera così netta, ma insomma il piano verso lo scorporo Fiat Auto dal resto del gruppo. E invece molto più probabile, anche perché è dato quasi per certo, per scontato, lo scorporo tra Pirelli e Pirelli Real Estate, quindi i pneumatici da una parte e i mattoni dall'altra, insomma, una coincidenza di scorpori. Andiamo avanti, invece, bene anche le banche, dicevo, nonostante le accuse britanniche, ma penso che qui abbiano pesato più i conti record di Goldman Sachs, sempre lei di mezzo. C'è un primo trimestre del 2010 con un utile che è raddoppiato, triplicato, adesso vado a controllare perché a memoria, quasi raddoppiato, a 3 miliardi 460 milioni di dollari nei primi tre mesi del 2010. Sì, certamente i risultati di Goldman, che erano molto attesi, hanno dato la spinta al mercato, un mercato che era già ben indirizzato questa mattina anche per l'indice tedesco ZEV di aprile sulla fiducia delle imprese tedesche, che è salito oltre le attese. Ma per quanto riguarda il settore bancario, certamente l'influenza positiva è arrivata oltreoceano da Goldman Sachs, ne hanno beneficiato un po' tutte le banche italiane, Banca Popolare di Milano meglio delle altre, più 4%, va detto anche che ieri la BPM ha annunciato la chiusura dell'operazione di vendita dell'attività di banca depositaria a BNP Paribas, e oggi l'amministratore, il direttore generale della Popolare di Milano, Dalu, ha detto anche che insomma la società sta iniziando a guardarsi intorno, in particolare pensa alla Popolare di Crema e di Cremona come possibili luoghi, diciamo così, di espansione per quanto riguarda l'acquisizione di nuovi sportelli. Ma nel settore bancario bene anche UbiBanca con un più 3,5%, un po' meno bene ma sempre vivaci Unicredit, Banco Popolare e le altre banche. Sì, appunto l'effetto comunque Goldman Sachs questa volta in positivo. Molti di voi chiedono perché la spin-off fa crescere la borsa, non ho capito se la domanda sia su Pirelli e Fiat, comunque possiamo spiegarlo per tutti e due, in tutti e due i casi, Andrea. Sì, certamente. Fa crescere il titolo e non la borsa, comunque. Certamente è, diciamo così, per quanto riguarda Fiat è più insomma la valorizzazione di un business che è quello dell'auto, e quindi una focalizzazione, anche perché poi lo spin-off porterà alla quotazione in borsa di Fiat Auto, probabilmente vedremo domani dal piano, quindi la valorizzazione di questo business con la vendita di una parte al mercato. Per quanto riguarda Pirelli invece c'è il problema di scorporare le attività immobiliari che in questa fase, negli ultimi due anni, hanno un po' pesate, anche perché Pirelli è in una fase di ristrutturazione, hanno un po' pesato zavorrando il titolo di Pirelli. Chiaramente Pirelli si troverà in corpo, diciamo così, il titolo quotato solo l'attività dei pneumatici, che è in buon recupero. Quindi diciamo che nel caso di Pirelli è più chiaro, se tu ti levi la tra virgolette, mi passino il tema, la zavorra dell'investimento immobiliare, Pirelli Real Estate, infatti questo fa, il titolo viene valutato solo per la sua attività nella produzione di gomme pneumatici, quindi viene valorizzato. Su Fiat è il caso un po' diverso, cioè a mio avviso perlomeno, perché viene valorizzata anche la Fiat senza auto in quel caso, oltre che essere più chiaro cosa compri quando comprerai, ammesso che ci sia il collocamento, quando dovrebbe essere il gruppo in borsa Fiat Chrysler, cioè diventa un gruppo solo automobilistico e tutte le altre attività, non c'è più una mescolanza o due vasi comunicanti tra perdite da una parte e guadagni dall'altra. Ecco perché la valorizzazione. Andiamo avanti, anzi no, traffico e poi andiamo avanti. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Si diceva degli altri titoli oltre ai bancari, al gruppo Fiat e a Pirelli. Andiamo rapidamente, Andrea Fontana su Parmalat, oggi in evidenza, più 3,90%, e poi anche sul settore petrolifero, in particolare da noi Saipem più 4% e Tenaris più 3,15%. E per quanto riguarda Parmalat, ricordiamo ieri una giornata particolarmente negativa, dove ha pesato anche lo stacco della cedola, per cui oggi un buon rimbalzo che Parmalat ha condiviso con l'intero settore alimentare. C'è stata anche qualche banca d'affari che ha consigliato appunto una ricopertura sul settore alimentare. Si è comportata bene, in particolare Nestlé ha tenuto un Unilever era un po' più sottotono invece Danone, ma questo ha consentito a Parmalat di fare un più 3,9% oggi. Mentre il settore dei servizi per l'attività petrolifera, e in particolare appunto sul listino milanese Saipem e Tenaris, si è comportato particolarmente bene, non solo perché anche qui oggetto di coperture rilevanti, ma va detto che sul settore è stata accesa un po' anche la luce da parte di una nuova quotazione a Zurigo da parte del colosso della perforazione petrolifera offshore, cioè Transocean, che è già quotato però a New York, una IPO particolarmente importante, tant'è vero che è la più grande IPO sul listino elvetico dalla quotazione di UBS, addirittura quindi dal 1997. Transocean, se ben comportata a Zurigo, ha fatto più 3% e quindi il settore gli è andata dietro, e se si sono ben comportate appunto Saipem, Tenaris, ma anche Vallourec in Francia. In Francia, certo. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. E noi restiamo in tema di mercati, però mercati delle materie prime, come annunciato ci occupiamo non del petrolio oggi, né di altre materie prime che abbiamo seguito la settimana scorsa al rame. C'è una tensione comunque anche su altri fronti, a partire da quelli che vengono chiamati i metalli non ferrosi. Che poi sarebbero, oltre al rame, l'alluminio, lo zinco, il piombo, lo stagno, il nickel e i materiali preziosi. Se ne è discusso nella settimana che si è appena chiusa, fino a domenica, al METEF, l'edizione annuale del METEF Fondec, l'Expo internazionale dedicato a Brescia alle tecnologie per lavorare alluminio e metalli non ferrosi. Insomma, 500 espositori, 40% dei quali proveniva dall'estero, 16.000 visitatori e 30 delegazioni straniere. Questo per un settore che in Italia significa 1.200.000 addetti e 15 miliardi di euro di giro d'affari. Questo nel 2009, che già era stato un anno terribile, con un meno 25% nel fatturato rispetto al 2008, quando appunto si aggirava intorno ai 20 miliardi di giro d'affari del settore dei metalli non ferrosi nel nostro paese. Allora, siamo in collegamento con Mario Conserva, che è amministratore delegato di Edimet, la società che ha organizzato anche quest'anno il METEF, per fare il punto sulle tensioni, sui prezzi delle materie prime, con l'economia asiatica e americana e brasiliana che sta tornando a crescere. Conserva, buonasera. Buonasera. Allora, dicevo del meno 25% di fatturato nel 2009 sul 2008, a 15 miliardi di euro. La produzione è scesa comunque dell'industria della fonderia italiana del 37%, 1.700.000 tonnellate, qui parliamo di tutta la fonderia, però sono 1.100 fabbriche con quasi 30.000 addetti, e i metalli non ferrosi rappresentano l'80% di questa roba. L'Italia comunque è riuscita a conservare l'ottavo posto tra i produttori di getti, con il 3% della produzione globale. Che tendenze sono emerse dal METEF che si è appena concluso? Beh, direi che le tendenze sono un po' a macchia di leopardo, non tutti i settori si muovono nella medesima maniera, alla medesima velocità, perché anche non tutti avevano, come dire, avevano sofferto di questi 18 mesi un po' pesanti, ecco, per tutta l'industria e naturalmente anche per il manifatturiero. Non c'è dubbio che la fonderia, alla quale nell'ambito di Metef è stato dedicato uno spazio molto particolare, molto specifico, ecco, il comparto della fonderia certamente ha avuto un calo più deciso e probabilmente avrà una ripartenza un pochettino più lenta, anche se il più roseo che si vede nel campo dell'automotive probabilmente avrà porterà dei vantaggi, senza dubbio, anzi li sta già portando. Altri comparti come quello dell'estrusione dell'alluminio ha avuto un certo calo, sono cali inferiori a quello della fonderia e stanno ripartendo con una maggior velocità, anche se l'automotive da una parte riprende, il piano casa non decolla come dovrebbe, quindi le cose va a finire che restano in equilibrio. Altri settori, i laminati, probabilmente hanno sofferto meno e quindi in sostanza cosa possiamo dire? Possiamo dire che il 2011 sarà sicuramente migliore, sicuramente il profondo rosso del 2009 è un abisso che abbiamo superato con danni, ma sicuramente cavandocela abbastanza brillantemente, tutto sommato, ecco. Un'altra domanda, abbiamo notato nel settore delle materie prime, ce ne siamo già occupati, un risveglio dei prezzi appunto nel settore delle materie prime dovuto alla domanda soprattutto che arriva dall'Asia, cioè lì l'economia si è fermata molto poco ed è ripartita molto presto. Notate tensioni sui metalli non ferrosi anche a livello italiano, cioè maggiori difficoltà nell'approvvigionamento? Beh, sa, quello dell'accesso alle materie prime è uno dei gravi problemi del comparto dei metalli non ferrosi e qui dovrei dire dell'alluminio in particolare. Parlare di metalli, di commodity, si parla di un mercato globale, è chiaro che noi si dice il mercato dell'alluminio dove va? Il mercato dell'alluminio va bene perché globalmente le cose vanno, però il globalmente vuol dire che in Cina hanno due cifre di crescita e da altre parti evidentemente le cose vanno un po' peggio. Questo significa che noi in questo momento stiamo subendo un po' la questione dei grossi investimenti che vengono fatti, tra l'altro nelle materie prime. La grossa domanda da parte dei paesi, non solamente Cina, ma c'è anche India, ci sono Brasile, i soliti paesi che stanno andando avanti, questo comporta una tensione sulle quotazioni che non corrispondono certamente al nostro mercato, a quello globale probabilmente sì, anzi, nostro, no. Anzi sicuramente sì, nel senso che appunto la ripresa arriva proprio da lì, è un problema che abbiamo già visto nel 2006 e 2005. Grazie comunque all'amministratore delegato e vicepresidente di Edimet, Mario Conserva, appunto la società che organizza il Metef Fondec a Brescia. E adesso il nostro GR, poi torniamo sulle banche. Da un lato l'attesa per lunedì di Intesa San Paolo, che forma avrà il consiglio della nuova banca, e invece Goldman Sachs, 349-238-6666 per i vostri sms. Goldman Sachs di nuovo in difficoltà, questa volta però in Gran Bretagna. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, dopo aver ricordato e aver sentito anche dalla voce dei protagonisti le dimissioni del presidente della Fiat Montezemolo, il suo posto verrà preso da John Elkann, domani la conferenza stampa sul piano industriale del gruppo, abbiamo dedicato a questo buona parte della prima ora, e aver poi ricordato anche gli utili record, vi torneremo, di Goldman Sachs, perché parleremo fra poco anche delle vicende legate alla banca americane, a questi strumenti sotto inchiesta da parte della SEC, la Consob americana. Vorrei adesso concentrarmi su un altro appuntamento importante. Domani c'è anche Pirelli, giustamente, ne abbiamo parlato durante i mercati, dovrebbe annunciare, lì c'è maggiore certezza, lo spin-off, la separazione tra Pirelli intesa come gomme e invece Pirelli intesa come immobili, quindi Pirelli Real Estate. Vedremo se sarà veramente domani la giornata degli scorpori, degli spin-off. Fiat e Pirelli. Adesso vorrei occuparmi invece di un'altra scadenza, quella di lunedì prossimo, ma su cui molto ci si sta già muovendo. A Torino si riunirà il Consiglio Generale del Comitato di Gestione della Compagnia San Paolo, che è il primo azionista del gruppo Intesa San Paolo, al 9,8%. Sul tavolo la questione della nomina alla presidenza del Consiglio di Gestione di Intesa San Paolo. Allora, qui si intrecciano due vicende, non è facile spiegarle in radio. Da un lato c'è la vicenda più politica, ce ne siamo occupati molto dopo le dichiarazioni ai nostri microfoni di Luca Zaia e l'appoggio espresso per Alessandro Profumo sulla vicenda fondazioni invece del gruppo Unicredito. Poi le dichiarazioni di Umberto Bossi sul diritto della Lega in qualche modo a occupare delle posizioni, delle poltrone dentro le banche del Nord. E le banche del Nord sono, diciamo, due, tre: Intesa San Paolo, Unicredito, Banco Popolare e Popolare Milano, e non vogliamo fare torto anche UbiBanca, ma insomma il riferimento era soprattutto, mi sembra di poter dire, a Intesa, Unicredit e forse anche al Banco Popolare. E questo si va a intersecare con invece un'operazione, quella di Intesa San Paolo, in cui storicamente, da sempre, lo dico senza nessuna polemica o malizia, gli azionisti torinesi, cioè la parte di San Paolo, aveva, insomma, espresso un po' di malessere per essere stata lasciata un po' più ai margini rispetto alla compagine milanese, quella rappresentata da Intesa. Il presidente era stato trovato a suo tempo, quando vi fu la fusione, in Enrico Salza, e adesso c'è un testa a testa, diciamo così, tra due nomi, no? Quello di Domenico Siniscalco, appoggiato, c'è chi dice, da Tremonti, della Lega, ma insomma, e invece Andrea Beltratti, che sembrerebbe essere più appoggiato da un'altra componente, quella più vicina a Intesa, e quindi elemento, diciamo, a Bazzoli e comunque a quella che possiamo definire l'area milanese del gruppo. Polemiche anche politiche, perché il sindaco di Torino Sergio Chiamparini, in un'intervista di qualche giorno fa, ha appoggiato pubblicamente la candidatura di Domenico Siniscalco, addirittura dentro il PD qualcuno ha detto, ma insomma, in questo modo favorisci la Lega. Noi vorremmo stare fuori dalla politica e capire però in realtà che cosa bolle in pentola e che cosa su quali terreni si stia giocando la partita. Oggi il presidente uscente, ma insomma, del consiglio di gestione di Intesa San Paolo, Enrico Salza, alla domanda qualcuno vuole ricandidarla, aspetta al consiglio di sorveglianza. Su Chiamparino non parlo, al massimo rispetto per il sindaco di Torino, che invece aveva espresso, va detto, in un'intervista, se non ricordo male, a Repubblica, forte critiche sull'operato di Salza, dicendo che insomma si era sentita poco la componente torinese. Alessandro Graziani del Sole 24 Ore, buonasera. A voi. Allora, un tema facile, no, privo di così di passi falsi. Più complicati in questo momento. È uno dei temi più complicati in questo momento, soprattutto in radio, sono d'accordo con te, ma non possiamo non affrontarlo, anche perché io lo tratterei nello stesso modo in cui abbiamo trattato la vicenda Unicredito. Qui c'è una forza politica, la Lega, che rivendica una maggiore presenza dentro le banche dei uomini tra virgolette suoi. C'è chi ha voluto vedere in questo Domenico Siniscalco, l'altro candidato è Andrea Beltratti. In sostanza, quali sono i due fronti e su cosa si sta giocando, per far capire a tutti, magari anche con un po' di imprecisione, la partita? Ma io direi che tu nella premessa hai messo bene le carte in tavola, nel senso che c'è indubbiamente una partita politica in atto tra la Lega e il centrodestra, che ha conquistato la regione Piemonte e quindi ha una maggiore supremazia nelle decisioni della Compagnia San Paolo. Come tu ricordavi, la stessa cosa è avvenuta in Unicredito con Zaia nel caso del Veneto e della Fondazione Cari Verona. Però in questo caso specifico bisogna anche dire, come tu hai ricordato prima, che la vicenda parte da lontano e parte dalla fusione tra Intesa e San Paolo e dal malcontento che da 3 anni agita Torino, perché la parte torinese ritiene di essere sottopesata nella governance di Intesa San Paolo. Da qui partono, da prima che la Lega sinceramente vincesse le regionali, le richieste di Benessia, che è il presidente della compagnia San Paolo, di contare di più dentro la governance di Intesa. C'è stata, se vi ricordate, la lunga battaglia sul nuovo direttore generale della Banca dei Territori, che ha portato alla nomina di un nuovo manager diverso da quello precedente e più espressione, più vicino, diciamo, alla compagnia San Paolo e a Torino. E adesso la partita vera si gioca sul presidente, con Torino che reclama l'idea di avere un suo rappresentante, e Domenico Siniscalco è l'uomo di punta in questa fase, ovviamente strizzando l'occhio, possiamo dire giornalisticamente, al governo, a Tremonti e alla Lega, che governa in Piemonte da pochi giorni. Ecco, tra l'altro rispondo agli ascoltatori al 349-238-6666. Avevo promesso un'intervista dopo quella di Luca Zaia anche a Cotta, neopresidente del Piemonte, la stiamo ancora aspettando, l'invito è stato più volte rinnovato, dopodiché se ha impegni altri istituzionali noi non possiamo che prenderne atto, speriamo di averlo presto ospite per parlare del rapporto tra politica e banche, banche e territorio. Ieri abbiamo registrato, venerdì, la dichiarazione di Mino Zanetti, presidente del consiglio di gestione di UbiBanca, che ha detto no a interferenze della politica nella gestione delle banche, e sempre venerdì Tosi, sindaco di Verona, Flavio Tosi, ha detto il presidente di Cari Verona, una delle fondazioni più importanti dentro il gruppo Unicredito, il riferimento è appunto a Paolo Biasi, stia tranquillo, nessuno vuole entrare a piedi uniti nelle banche, ma la politica non è seconda alla finanza, non è più debole come 15 anni fa. Per concludere, Alessandro, secondo te qui la variabile sarà più di carattere, tra virgolette, politico, cioè l'idea che la Lega voglia entrare, avere dei suoi uomini dentro la banca, o più di carattere, passiamo in termini, geografico, cioè la disputa Milano-Torino, che secondo i torinesi, quando vi fu la fusione Intesa San Paolo, era stato promesso che, insomma, che Torino avrebbe avuto comunque la presidenza e quindi un ruolo più forte, da lì Siniscalco che viene visto come l'uomo di espressione torinese. Più la politica o più la geografia? Io credo che alla fine si troverà una sintesi tra le due. Come sei variabili. Diplomatico? No, è che però non sono diplomatico nel dire che secondo me Siniscalco ha grandissime possibilità di rappresentare entrambe le esigenze, perché da un certo punto di vista è un torinese doc, ha un'esperienza manageriale di grande livello ed è anche oggettivamente l'ex ministro del tesoro del governo Berlusconi precedente, quindi in ottimi rapporti col centrodestra, per cui e ha rilanciato i suoi rapporti anche con Tremonti, perché la quadratura, malgrado i mal di pancia forse tattici che ci sono in questa fase, io credo che alla fine si andrà in quella direzione. Sì, va detto per precisione che secondo me neanche Andrea Beltratti è torinese, non vorrei sbagliare, è stato ospite altre volte in questo programma per parlare del rapporto sul risparmio, e va detto anche che appunto Siniscalco prese il posto di Tremonti quando vi fu il cambio di mano, un po' di tensione tra i due, ma che sembrano assolutamente rientrate. Comunque ho capito benissimo il tuo ragionamento, l'appuntamento è a lunedì, quando appunto si riunirà il Consiglio Generale e il Comitato di Gestione della Compagnia San Paolo. Grazie Alessandro Graziani. Il traffico e poi Goldman Sachs nella bufera da un lato, macina utili record, la banca americana ha fatto salire le banche, ma apre un'inchiesta anche la Consob britannica oggi su questi prodotti che ha detto Bill Clinton, e io non avevo capito, mi avevano assicurato che sarebbero stati usati da pochissimi e invece mi hanno fregato i miei ex ministri al tesoro Robin e Summers, dicendomi che non andavano regolati. 349-238-6666 per i vostri SMS. Allora, di nuovo Goldman Sachs, la banca d'affari americana nella bufera, dopo che l'autorità di vigilanza americana l'ha accusata di frode, vi spieghiamo per l'ennesima volta. Da un lato vendeva prodotti finanziari ai propri clienti legati ai mutui subprime, quindi a mutui ad alto rischio, prodotti derivati, dall'altro andava a scommettere che il mercato immobiliare sarebbe crollato e aveva sviluppato un prodotto vero e proprio per scommettere sul crollo del mercato immobiliare. Quindi da un lato vai a vendere ai tuoi clienti un prodotto che è legato in maniera molto diretta e anche esponenziale, se non derivato, al mercato immobiliare, dall'altro scommetti che quel prodotto lì salterà per aria, perché salterà per aria il mercato immobiliare. Da qui l'accusa di frode. Oggi se ne occupa anche la Consob britannica, ha dato il via libera formale alle indagini su Goldman Sachs, molto duro il giudizio del ministro britannico all'economia, il cancelliere dello scacchiere Alistair Darling, che ha detto le accuse sono gravi e le ramificazioni enormi. Goldman Sachs dice le accuse sono infondate e intanto festeggia un utile record raddoppiato nei primi tre mesi dell'anno a 3 miliardi e 460 milioni di euro, con un dividendo di 35 centesimi per azione solo per i primi tre mesi dell'anno. Allora, adesso vi leggo, visto che tutta la polemica riguarda questo strumento, questo fondo creato da Goldman Sachs e da Paulson, da non confondersi con l'ex segretario del tesoro Henry Paulson, ma John Paulson. Lo strumento si chiamava Abacus 2007 e permetteva appunto di scommettere a ribasso sul mercato immobiliare. Vi leggo un articolo. Il titolo è La nuova strategia degli Stati Uniti, vendere titoli garantiti dai prestiti a rischio e guadagnare fino al 1000%. Quindi vendere titoli che hanno come unica garanzia dei prestiti dati a persone che probabilmente non riuscivano a ripagarli, come nel caso di subprime, e guadagnare il 1000%. Ora gli hedge fund speculano sui mutui. La scommessa di questi strumenti è che il mercato immobiliare peggiori nei prossimi mesi. L'articolo dice... L'idea è questa: mettersi a ribasso sui mutui casa confidando che con l'afflosciarsi della bolla immobiliare aumentino anche le insolvenze delle famiglie americane, di quelle che tra tassi in rialzo, valore dell'abitazione che scende e impossibilità di rifinanziarsi non riescono più a pagare la rata mensile. C'è uno strumento apposito per guadagnare per chi appunto non riesce più a pagare la rata. Un hedge fund, in questo caso un grande fondo americano, acquista un pacchetto di mutui casa cartolarizzati, possibilmente tra i peggiori come affidabilità, in larga parte proveniente dalla California, dove maggiore sta la bolla, e possibilmente quasi tutti costruiti a un tasso che varia fortemente. E poi viene spiegato il meccanismo con cui con la destra vendi questi pacchetti di crediti che hai, di crediti che tu ti sei preso ma poi vai a rivendere, e con l'altra speculi sul fatto che il mercato immobiliare sarebbe saltato per aria. Tutto facile, mica tanto, perché questo articolo è del 19 agosto del 2006. Sul Sole 24 Ore già se ne parlava, e ne parlava Walter Riolfi, che oggi giustamente, sempre sul Sole 24 Ore, a quasi tre anni di distanza, rivendica il diritto di averlo già detto. Walter Riolfi, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, la domanda è molto semplice, semplice. Se Clinton dice io non avevo capito che cosa facessero questi, quando mi hanno detto, chiede scusa agli americani perché i due miei ministri al tesoro, prima Robert Rubin e poi Larry Summers, mi avevano detto che questi strumenti erano così complessi, questo è vero, perché nessuno ci ha capito niente, neanche le banche, così complessi questi derivati sul mercato immobiliare, che li avrebbero usati in pochissimi, quindi non c'era bisogno di regolamentarli. Poi si è scoperto che li hanno usati tutti, che hanno creato la più grande crisi finanziaria e economica degli ultimi 50 anni, e Clinton ha detto ho sbagliato ad ascoltare i miei due ministri. Perché non si è letto solo le 24 ore del 2006? E come mai, se tu l'avevi capito, le banche hanno continuato a fare andare avanti con questo doppio, diciamo, questo strabismo? Da una parte vendi strumenti sul mercato immobiliare, dall'altra scommetti che il mercato immobiliare crolli? Walter. Allora, diciamo che quell'articolo, che è di 4 anni fa, praticamente... 4 anni fa, ho sbagliato io. 4 anni fa. Io sono ancora nel 2009. È stato un colpo di fortuna. Io mi trovavo a Londra a parlare con alcuni hedge fund. Quindi che sono fondi ad altissimo rischio, molto speculativi. E dove comunque sono i gestori più intelligenti che esistano. Questo non vuol dire che non commettano errori, comunque. E uno di questi... che nell'articolo non potevo citare perché tutto quello che mi è stato detto era sotto la garanzia dell'anonimato, ma ha raccontato questa operazione, no? Quindi si trattava di scommettere sul ribasso, non solo sul ribasso, sul tracollo dei mutui subprime. I subprime erano quelli a maggior rischio, quindi sotto concessi prime, cioè, alle famiglie che avevano meno capacità di reddito. E devo dire che io ho fatto una fatica incredibile per riuscire a capire qual era il meccanismo. Era la prima volta nella vita mia che sento parlare di questi CDO, CLO, eccetera, eccetera, tutti questi strumenti derivati costruiti sul mercato del credito, che poi si sono rivelate delle vere e proprie bombe, armi di distruzione di massa, l'aveva chiamate anche Warren Buffett. Sì. Ecco, ma in quel periodo si stava formando una bolla speculativa sul credito e soprattutto sugli immobili negli Stati Uniti. C'erano tanti commentatori che l'avevano capito, tanti economisti, tra cui Bill Gross l'aveva capito perfettamente in maniera del tutto lucida. Sì, ma come mai l'aveva capito Goldman Sachs, che faceva però la furbetta. Secondo me c'era uno importante che non l'aveva capito, che era Greenspan. Il quale chiamava, sì, c'è della schiuma, diceva, non bolla. No? Allora, quindi, secondo te, adesso al di là del tu non sei un magistrato, non lavori alla SEC, però in una battuta, l'inchiesta aperta per frode arriva tardi, ma arriva su un terreno abbastanza inconfutabile, cioè sarà difficile per Goldman Sachs dire noi non avevamo capito, non sapevamo? Sì, dopo io non so come finisca la cosa, perché secondo me... sarà difficile riuscire a accusare Goldman di tutto questo. Goldman ovviamente sapevano, perché sono molto intelligenti, sono molto bravi e anche hanno molte informazioni, no? Infatti c'è una delle battute di nickname di Goldman Sachs, è Government Sachs, dati i suoi legami. Sì, loro hanno da sempre una storica, adesso molti citano anche il fatto che Draghi ed altri abbiano un passato in Goldman, hanno da sempre, diciamo, un grandissimo rapporto con l'elite politica a livello mondiale. Io vi farei sentire però una cosa, che è una piccola chicca, e cioè Lloyd Blankfein, che attualmente è ancora il numero uno di Goldman Sachs, che ha una storia tutta americana, ha frequentato le scuole pubbliche, è nato nel Bronx, insomma ha guadagnato solo nel 2006 53 milioni di dollari e sì, in un'intervista disse che lui svolgeva il lavoro di Dio. Ebbene, così parlò dicendo ci siamo dati un po' troppi bonus, perché Goldman Sachs anche nel 2009, pur avendo ricevuto 10 miliardi di aiuti, ha distribuito 16 miliardi di dollari di bonus, 500 mila dollari a testa. Allora sentiamo Lloyd Blankfein e ammettere che forse i bonus erano eccessivi, poi ci abbiamo attaccato una piccola chicca anche qua, 1976, Sidney Lumet, Quinto Potere. I compensi continuano a creare risentimento e rabbia e sotto molti punti di vista questo è comprensibile e opportuno. Non è giustificato il fatto che vengano pagati compensi fuori misura in modo discrezionale quando un'istituzione finanziaria perde soldi. Ecco perché crediamo che si debbano applicare degli standard ai compensi di chi lavora nell'industria finanziaria, che dovrebbero stimolare il lavoro di squadra e non gli atteggiamenti egoistici, incluso il fatto di prendere rischi eccessivi. Un comportamento questo che nel lungo termine va a svantaggio sia della società che degli azionisti. Penso che i bonus pluriennali debbano essere banditi e lo staff degli istituti di credito debba ricevere una maggiore quota di azioni nell'ambito dei propri compensi. Sfortunatamente l'uso dei bonus pluriennali è una pratica comune nel nostro ambiente. Tutti dovremmo riconoscere che sono negativi, non fanno l'interesse della nostra industria e del sistema finanziario. We should all recognize that they are bad for the long-term interests of our industry and for the financial system. Non vi sono nazioni, non vi sono popoli, non vi sono russi, non vi sono arabi, non vi sono terzi mondi, non c'è nessun ovest. Esiste soltanto un unico, un solo sistema di sistemi. Uno, vasto e immane, interdipendente, intrecciato, multivariato, multinazionale dominio dei dollari. Petrodollari, elettrodollari, multidollari, Reichmark, sterline, rubli, franchi e shekel. È il sistema internazionale valutario che determina la totalità della vita su questo pianeta. Grazie a Walter Riolfi, che almeno qualcosa, lui, perché gli altri non avevano capito nulla, nel 2006 aveva capito. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.